Io inizierei, ragazzi. Una cosa? Sì. C'è una persona che lei che ha bisogno di traduzione. Sì. E lei preferirebbe che qualche persona glielo scrivesse tipo su un computer con un Google Translate. Ok. Che così lo legge. E che sarebbe da fare anche durante il laboratorio. Nota di servizio per questo laboratorio. Il laboratorio si terrà in italiano. Darò del materiale ai partecipanti, però abbiamo una persona che gradirebbe avere una traduzione nel mentre, quindi l'ideale sarebbe avere, usando anche semplicemente un traduttore di vostra scelta, scritto in maniera tale che quello che vuoi. Sì. Non so, ecco, vi farei sedere. Il format è un po', fra virgolette, particolare, è un esperimento. Quindi, cioè, partirei con un cerchio di sedie e poi, appunto, come dicevo, darò del materiale. Vorrei fare una piccolissima introduzione, il pippone, per l'appunto, giusto perché almeno condividiamo lo stesso approccio nel fare questo laboratorio. E purtroppo per ragioni di regia devo stare qua in piedi a fare il pippone, però vabbè, va collate. Sì, non scoppia? Non scoppia la cassa? Va bene. Basta che non ci vai avanti, sennò fa riverbero. Puoi stare senza problemi. Allora, ragazzi. Benvenuti. Questo laboratorio si chiama Oltre il capitalismo nella società dell'informazione ed è una, appunto, come dicevo, un po' un esperimento. L'idea è quella di provare a immaginare degli immaginari alternativi nel futuro. È un'idea che mi è venuta in seguito ad una conferenza che ho potuto seguire online dopo il CCC. Tenuto appunto da esperti, quindi prettamente accademici, ma non solo, anche persone che fanno cose in Germania in maniera più, come dire, classica, dentro ONG, dentro comunità di vario tipo. E appunto la loro domanda principale è: esiste un futuro oltre il big tech, oltre il capitalismo di piattaforma, oltre il capitalismo di sorveglianza? E quindi cerchiamolo di immaginare un po' questo nuovo futuro, cioè che forma ha questo ipotetico futuro? Siamo qua per crearlo, esistono già dei pezzi di questa cosa, no? Il punto è che sia un acquisto su Amazon o un video su YouTube, un messaggio su Twitter, insomma tutte le grandi piattaforme alla fine regolano la nostra società. E spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto, non riusciamo neanche a identificare a volte queste cose. Vi faccio un esempio, cioè se io sono una piccola libreria e mi viene un ordine particolare, come posso essere sicuro che questo libro in realtà comunque non mi sia stato comprato da Amazon e poi distribuito effettivamente nella piccola libreria di periferia, fra virgolette? Non abbiamo sempre questa certezza e noi stessi non ce ne rendiamo neanche conto. Mentre dal lato più tecnico, ad esempio, ci sono dei grossi servizi chiamati di CDN per i più tecnici, quindi dei pezzi comunque infrastrutturali che regolano la consegna dei contenuti su internet per ragioni di efficienza, e sono comunque gestiti da grosse piattaforme online che all'utente sono completamente invisibili, così come anche il talk che è stato tenuto ieri riguardo ai tubi dell'internet, fra virgolette. Cioè, chi c'è dietro questa roba? Sono delle aziende molto grosse e non abbiamo la, come dire, la visibilità, la trasparenza su questo. Quindi, soprattutto con la pandemia, assistiamo sempre di più alla nascita di monopoli sempre più grandi, che non hanno avuto uguali nella società industriale nel passato, colossi che hanno ormai una enorme anche capitalizzazione di mercato, un valore paragonabile se non superiore a quello di grandissime nazioni, E quindi esercitano anche una forza politica non indifferente. Una cosa, scusate, c'è qualcuno che per favore può prendere, scrivere anche grandi linee a quello che sto dicendo, oppure che utilizza il mio computer traducendo per la signora francese che gradirebbe avere qualcosa di scritto in inglese perché ha un problema di udito? Sì? Qualcuno può aiutarla per favore? Grazie Salvatore dalla maglietta bianca. Quindi stavo dicendo, la differenza principale da grandi monopoli del passato è che queste grandi piattaforme, questi grandi servizi che regolano la nostra società, non solo offrono un servizio e stop, cioè non è che io sono, che ne so, Coca-Cola, faccio un prodotto, lo butto fuori, chi me lo compra, bene, e più mi viene comprato questo prodotto più divento ricco. Non è solo così, ma è proprio anche una logica del, soprattutto con, insomma, delle tecnologie legate in particolare all'intelligenza artificiale, ma non solo, quello che possiamo comunque assimilare e portare vicino a, in generale, a un capitalismo di sorveglianza, eccetera. Più usiamo questi prodotti, più questi servizi diventano pervasivi e più sono bravi a farlo, quindi riescono sempre di più. Sì? Stavo un attimino impazzendo. Sì, questo è un po' il mio script che sto leggendo. Sì, mi servirebbe l'appunto, faccio una foto col telefono, non ti preoccupare. Tanto più o meno ce l'ho in testa. È un pippone, ripeto, cioè... Can take mine and change if you want, or you can take mine. Vai. Oh. Quindi in generale, cioè questa cioè vediamo anche delle grosse piattaforme che quello che vanno a fare è scambiare delle informazioni tra di loro. Utilizzano il dato, la conoscenza, eccetera, come qualcosa che viene estremamente accentrato. Riescono a costruire dei monopoli in cui l'informazione è il nuovo petrolio, e, come dire, vengono a creare dei chiamiamole delle reti comunque di collaborazione tra di loro. Ci sono delle pubblicazioni che Google fa con Amazon, Amazon fa con Microsoft, Microsoft fa con Apple, i famosi white paper, se magari qualcuno del settore ha mai sentito parlare di queste cose, sono comunque delle pubblicazioni anche di ricerca in cui queste grosse, diciamo, aziende si insegnano a vicenda come diventare ancora più pervasive. Quindi questa è una dinamica che io descriverei come capitalismo di piattaforma alimentato da una benzina fatta di sorveglianza, accumulo di risorse intellettuali ed estromissione repressiva che viene resa normalizzata. È un qualcosa che noi andiamo a buttare completamente, purtroppo, perché la subiamo, in un angolo sempre di più, e abbiamo difficoltà ad immaginare un qualcosa di diverso. Stiamo vivendo un po' una crisi legata a un immaginario del futuro. Quindi abbiamo questa mancanza di immaginazione, c'è la necessità di immaginare un futuro diverso, e questo capitalismo che sta assumendo delle forme differenti è sempre più un modo di pensare che però va combattuto. Quindi questa dominazione ha due problemi principali. Il primo è che questi mega monopoli, appunto, limitano fortemente la possibile esistenza di alternative. Ad esempio Chaton, come la nostra ospite francese, insomma, conosce, quindi sia economiche che non, restringendo la scelta dell'utente finale. Il risultato è che le comunità e i prodotti free open source, come anche ad esempio OpenStreetMap, che è un prodotto molto grosso, molto attivo comunque nella community in generale, secondo me non so, software comunque prodotto, dai, chiedono appunto se prodotto o servizio, c'è un API, comunque è libera, chiunque in teoria ci può contribuire. Il punto è che per varie ragioni non è sempre la scelta più conveniente, e volevo che stesse qui il focus dell'attenzione, no? Perché ripeto, non è la cosa più diffusa, non è sempre interoperabile con ciò che invece Google propone o altri servizi propongono, quindi diventa più difficile. Quindi queste comunità, Come mi dici? Alcuni attori molto grossi che contribuiscono, sono il vero Apple, esatto. Dicono che appunto, ecco, stesse aziende molto grosse contribuiscono poi indirettamente a questi free open source software, rendendo, diciamo, questa modalità ancora da un certo punto di vista non più esclusiva, ma comunque il becco ce lo mettono anche là. Quindi questi progetti qui, gli Hacklab, i Makerspace, mettiamoci tutto quello che vogliamo, in generale altre maniere alternative di intendere il web, la tecnologia, vengono schiacciati in una nicchia sempre di più. E questo è una problematica soprattutto anche per i movimenti e per chi vuole provare a fare qualcosa di diverso. Il secondo grosso problema è che queste grandissime aziende creano nuove dipendenze tra piattaforme e utenti, proprio va nella direzione di quello che hai appena detto. Quindi trasformano i cittadini in puri consumatori, ancora una volta, ai quali non è neanche chiesto di essere partecipanti attivi nei discorsi politici e di gestione del potere, come diciamo tradizionalmente si è fatto fuori dall'internet, fra virgolette, ma anzi, cioè, è una cosa che online, se ci vuoi stare, questo usi e non fai altro. Anzi, ancora meglio pure per loro, i cittadini partecipano fornendo dati nel processo di innovazione che queste aziende sostengono, ma vengono poi estromessi e il frutto della loro partecipazione e del loro lavoro viene espropriato. Quindi è un qualcosa, proprio come dicevo prima, qualcosa che è puro espropriamento intellettuale in un qualche senso. Quindi in realtà, ecco, il pippone è già finito qua, cioè, nel senso, vi volevo dare un po' un'idea introduttiva di questa cosa. Io mi sono fatto delle domande, ve ne leggo alcune per provare a dare un po' il là, fra virgolette, in questa sessione. Però mi aspetto che sia una sessione molto interattiva. Io adesso ho stampato 11 copie e credo che ci siamo. L'idea è di fare una sessione molto interattiva, dove ci saranno dei piccoli momenti di riflessione individuale o a coppia, che giusto per, come dire, fluidificare un po' il discorso, visto che possono essere tematiche a cui, uno, ognuno dà l'accezione che vuole, e due, è molto ampio, può essere anche, appunto, per non fare il secondo pippone, ma anzi provare ad arrivare a qualcosa di alternativo. Quindi, ripeto, io mi occuperò principalmente di provare a guidare queste interazioni, però vorrei che io, cioè, non volevo fare un talk venendo qua con le mie idee e vomitandovele addosso, ma anzi io volevo, come dire, mettervi il seme del dubbio e lasciare che ci lavoraste voi. Quindi ho esternalizzato la sbatta e va arrangiato. Queste domande, ad esempio: come possiamo assicurarci che il nostro futuro in questo mondo digitale possa nuovamente mettere al centro il bene comune e non il profitto? Contro i big tech esiste un small tech, fra virgolette? Sono i servizi autogestiti che tanti di noi qua usano? Sono le cooperative di piattaforma, di cui magari qualcuno ha sentito parlare? È possibile usare strutture del mercato per muoverci oltre il capitalismo, oppure è una condizione inerentemente destinata a fallire? Quali sono allora gli schemi in cui la cooperazione è incentivata anche nelle differenze tra offline e online? A livello tecnico, invece, quali infrastrutture alternative possiamo immaginare? Ci servono dei nuovi standard per organizzare la cooperazione tra servizi e comunità che fanno cose online? Possiamo andare oltre una centralizzazione del cloud e ottenere le stesse efficienze energetiche? Quali sono i soggetti rivoluzionari che inizieranno questa transizione? Quali sono i loro bisogni? Quali alleanze fra temi e movimenti politici possiamo creare? Ad esempio, femminismo e giustizia climatica? Dobbiamo spingere per sindacalizzare maggiormente queste grandi organizzazioni e avere, ad esempio, lavorando con Tech Workers Coalition, oppure, non so, ci sono delle dinamiche che vanno vissute in maniera più locale, delle dinamiche che invece vanno vissute in maniera più globale. Quindi questo è il pippone. Il workshop è diviso in, come dicevo prima, dei piccoli momenti individuali. Io adesso vi fornirò questi fogli. Ripeto, sono 11 copie, fateli girare, alcuni sono stampati decentemente, altri sono stampati molto male. E mi hanno detto che non sono capace a impaginare, però vabbè, pace. In sostanza, potete vedere che è diviso in tre parti, più il zero, che è il pippone. L'idea è di fare dei cicli molto veloci, sono delle tecniche di facilitazione in cui ognuno ragiona in maniera autonoma per un secondo a questo tipo di domande, poi si andrà a confrontare a coppia e poi condividiamo la cosa, in modo che iniziamo un po', fra virgolette, a scaldare questa conversazione per poi buttarci dentro in una discussione vera e propria più ad ampio respiro. È in italiano, però comunque ok. Cosa? No, lo faccio cagare. No, assolutamente. Alcuni sono anche stampati al contrario, cioè è proprio fantastico. Vabbè. Però ecco, l'idea è cosa vorrei provare, perché parlavo prima di piantare il seme del dubbio dentro tutto questo, perché l'idea è che, ripeto, non sono io qua a fare il pippone, ma è, come dire, provare a far immaginare a ciascuno di noi, in questo momento, cosa nella propria situazione funziona di più e quali alternative potrebbero esistere. Però io non posso, cioè io non conosco le situazioni di ognuno e non voglio neanche avere questa pretesa. Quindi è come dire, dare degli strumenti, provare a costruire anche un discorso collettivo che però poi possa essere riportato in azioni concrete nella realtà di ciascuno di noi. Quindi in sostanza, io adesso che cosa farò? Farò partire un timer e sarà una cosa super veloce, potrete provare a ragionare, potete scriverci se avete una penna, quello che vi pare. Darò un minuto, in questo minuto ognuno ragionerà sulla domanda che gli pare, cioè dove io vi ho lasciato con delle domande, cioè provereste a dare subito delle risposte a queste domande? Considerato la vostra situazione nella comunità nella quale siete, cioè provereste ad andare oltre, fareste domande differenti? Quindi questo è un minuto, darò poi due minuti in modo che ognuno possa parlare con la persona che è a fianco a sé, dovrebbero più o meno uscire delle coppie, e poi ci sarà un altro momento in cui andremo a creare dei gruppi di quattro persone. E poi andiamo a fare una cosa collettiva. È giusto davvero, solo per mescolare le carte, fluidificare un po' appunto la margarina, lo strutto sociale, per lubrificare, di cui si parlava prima. Domande? L'ultimo tango... No, non la conosco questa. Vabbè. E basta. Quindi io qua fermo. Non so, avete domande particolari su questa prima parte? No.